Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, questa è Europa 24, in primo piano la discussione sul patto di stabilità. Oggi è intervenuta la cancelliera Merkel al Bundestag. Questi altri temi saranno trattati nel Consiglio europeo di domani e venerdì. Il patto di stabilità ha indirizzi e limiti molto chiari, ma anche strumenti di flessibilità da utilizzare. Da una botta al cerchio e una alla botte, Angela Merkel, sul tema del rispetto dei vincoli di bilancio tanto cari ai tedeschi, ma su cui molti paesi chiedono una svolta. Il cancelliere si presenta al Bundestag alla vigilia dell'importantissimo Consiglio europeo che deciderà le nomine nei posti chiave di Bruxelles e le linee guida della politica europea dei prossimi 5 anni. La Merkel dice che la disoccupazione è il problema più urgente in Europa e mette le cose in chiaro rispetto ai partner. La Germania resta l'ancora di stabilità e il motore di crescita dell'intera eurozona. A chi come il premier inglese Cameron continua a opporsi alla nomina del popolare Juncker alla guida della Commissione, manda a dire che non è un dramma se il numero uno dell'esecutivo comunitario sarà eletto con una maggioranza qualificata. L'Italia sembra pronta ad appoggiare Juncker, ma chiede che si vari un pacchetto complessivo di nomine all'insegna della discontinuità, in cui possa trovar posto il nome di Federica Mogherini come alto rappresentante della politica estera dell'Unione. La partita è aperta e gli esiti tutt'altro che scontati. Massimiliano Zampini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Italia ha fatto molti passi avanti in questi anni per il consolidamento dei suoi bilanci, ma il problema del suo debito pubblico è davvero rilevante. Lo dice Olli Rehn, il commissario europeo uscente agli affari economici e monetari. Rehn aggiunge di credere che la cosa migliore per il governo italiano sarebbe continuare nell'opera di consolidamento, non eccessiva, non troppo aggressiva, ma consistente con l'obiettivo a medio termine che il Paese si è dato. Il piano di pace del presidente Poroshenko è molto buono e saggio e mentre accogliamo le parole della Russia non abbiamo ancora visto azioni per rispettarlo. Lo dice il ministro degli esteri britannico William Hague, che ricorda che il Consiglio esteri dell'Unione Europea ne ha parlato lunedì a Lussemburgo e sarebbe un grave errore sottostimarlo. La morte del tifoso del Napoli, Ciro Esposito, colpito 50 giorni fa fuori dall'Olimpico di Roma, pone certamente al centro del dibattito la questione della sicurezza e della violenza dentro e fuori dagli stadi. Nel servizio raccontiamo come si stanno muovendo i paesi europei e quali sono le normative in vigore. Spetta soprattutto agli stati membri in Europa la prevenzione e la repressione della violenza negli stadi. La Francia nel 93 si è dotata di una legge contro la violenza nello sport e dal 2003 ha sviluppato regole più rigide. Ad esempio, chi danneggia i beni pubblici rischia fino a 5 anni di carcere. Chi non rispetta il divieto di assistere alle partite può finire in prigione per 2 anni e il lancio di oggetti o l'introduzione allo stadio di coltelli, aste o striscioni può comportare 3 anni di reclusione. L'Inghilterra ha debellato il fenomeno hooligan con la condanna penale per gli atti di violenza o per le violazioni al DASPO. Oggi le forze dell'ordine inglesi hanno la facoltà di arrestare e far processare per direttissima i tifosi anche solo per violenza verbale. Si può fare ricorso, ma se l'appello risulta infondato la condanna è raddoppiata. La Gran Bretagna ha poi puntato molto sulla responsabilizzazione delle società. Stewards privati pagati direttamente dai club sono in collegamento via radio con la polizia che rimane presente solo all'esterno degli stadi. Il modello anglosassone è stato in parte recepito dalla Germania, in cui non esiste una legge nazionale, ma anche in questo caso si ricorre al supporto degli stewards pagati dai club. La polizia tedesca ha diritto di arrestare preventivamente i tifosi violenti. In Spagna si ha l'obbligo di prenotare il proprio posto con nome e cognome e restarvi seduto per tutta la partita, e questo vale anche per le curve. Anche in Spagna esiste la figura dello steward, mentre spetta alla Commissione Antiviolenza Statale imporre ai club il pagamento di forze di polizia aggiuntive in caso di partite potenzialmente pericolose. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24 di oggi, 25 giugno. Vi ha parlato Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.